Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Ma vediamo se riesco a dirlo. World Web. Parole, pianeta e rete, detto anche www. Esatto, molto semplicemente è il titolo di un appuntamento che ci sarà a Firenze dal 28 al 30 maggio. Parole, pianeta e rete, appunto, quindi sostenibilità ambientale, quindi temi a noi cari, forse fin troppo. Forse fin troppo. Che però sono anche un'opportunità di business e di impresa, come stanno dimostrando e come dimostreranno anche in quell'occasione. Noi abbiamo voluto invitare, insomma, gli organizzatori, ospiti, partecipanti di questo evento per capirci qualche cosa di più. Prima diamo le news, poi parliamo di www. Continua la sfida tra Google e il magnate Rupert Murdoch. A breve il sito del quotidiano inglese Times sarà a pagamento. È una svolta annunciata nei mesi scorsi dall'imprenditore australiano, fondatore del gruppo News Corp. Il costo per l'abbonamento giornaliero sarà di una sterlina. Murdoch, però, ha deciso che gli articoli acquistabili online saranno invisibili per i motori di ricerca. L'Islanda apre un centro dati interamente sostenibile. Il primo inquilino è l'azienda norvegese che ha lanciato Opera, un software per navigare su internet. La struttura è alimentata da fonti rinnovabili. Il collegamento con l'infrastruttura di internet è assicurato da 3 cavi sottomarini. Passiamo alle scienze. Nessun segnale da Phoenix, il veicolo della NASA atterrato 2 anni fa su Marte. I ricercatori dell'ente aerospaziale americano hanno provato senza successo a stabilire un contatto. L'inverno sul pianeta rosso ha danneggiato un pannello solare del veicolo. La durata di vita prevista per Phoenix era di 3 mesi. E noi abbiamo in collegamento Andrea Tracanzan di Zoes.it. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Facciamoci spiegare prima brevemente da Luca dello Jacopo che cos'è Zoes, poi lanciamo una scheda, poi torniamo con Tracanzan e poi ne facciamo di tutti i colori, via. Sì, Zoes è appunto anche un luogo di incontro tra le diverse comunità che spesso sono impegnate nel terzo settore, ma anche in tante altre attività sul territorio. Sono esperienze frammentate spesso. Zoes è un luogo pubblico di incontro e adesso sentiamo l'approfondimento. Sostenibilità, valori, collaborazione. Zoes è uno spazio per l'incontro tra associazioni e persone frammentate sul territorio italiano, ma unite dall'impegno nel terzo settore. Ha molte anime. Diventa una piazza per gli acquisti di prodotti ecologici e solidali sulla scia del commercio equo e riunisce iniziative attive nelle regioni italiane attraverso una mappa, gruppi di acquisto locale, enti pubblici, organizzazioni non profit e anche un calendario per eventi sul territorio. A lanciare Zoes è stata 2 anni fa la Fondazione Banca Etica. Nel tempo la comunità su internet si è allargata e adesso guarda alle sfide della globalizzazione ma con un radicamento nella cultura locale. Allora Tracanzani, io scrissi di voi 2 anni fa su Nova 24 e l'impressione che ebbi 2 anni fa era di un social network non snob, però quantomeno un social network per persone che in un certo senso condividono certi valori, che si ritrovano in una particolare visione del mondo e forte di questo, insomma, guardano insieme in una direzione. Ho sbagliato? Ma mi ricordo bene del tuo articolo, Luca, di 2 anni fa su Nova. Zoes di fatto è una piattaforma aperta a persone che hanno una base di valori comuni, ma che di fatto non vogliono chiudersi nella loro comunità, come poi sta avvenendo anche uno dei temi, poi l'autoreferenzialità dei social media quando si tende a parlare alla propria comunità di riferimento. Zoes non vuole assolutamente essere questo, ma vuole essere uno spazio a disposizione di tutto il web. Siete riusciti a creare dei collegamenti tra le persone attraverso Zoes, delle iniziative quindi che sono state alimentate anche da Zoes? Beh, assolutamente, una di queste, quella che ci è anche più cara, è quella dell'ecovillaggio autocostruito all'Aquila, che attraverso, proprio grazie a Zoe, si è trovato un canale di comunicazione, un modo di affacciarsi al mondo. Pensiamo che poi ne hanno parlato anche i media mainstream. Partendo proprio da Zoe si è riuscito ad attivare una comunità che ha sostenuto i cittadini terremotati di Pescomaggiore e ha fatto in modo che più persone e imprese anche si mettessero a disposizione per aiutare in questa mission, in questa difficile causa. Ecco, ecocostruito significa... Ecocostruito significa che si sono utilizzati dei materiali biodegradabili? Assolutamente, sono stati utilizzati dei materiali naturali e compatibili con l'ambiente, ma non solo eco, ma anche autocostruito, cioè sono state le persone stesse a mettersi in gioco e a costruirli con l'aiuto di tanti volontari. Tra l'altro Luca Dello Iacovo, che è un appassionato di mappe, gli ascoltatori lo sanno perché ne produce in quantitativi industriali, ha trovato una mappa anche per Zoes. Ed è una mappa molto bella perché è una mappa che mette insieme tante iniziative sul territorio, che sono appunto delle associazioni, delle imprese, degli enti pubblici, dei gruppi di acquisto solidale, che in genere sono dispersi nelle regioni italiane, però attraverso la mappa si possono vedere tutti insieme. E quindi qual è l'immagine che dà? Qual è l'impressione? Qualcosa di cattivo? Di qualcosa di... Che ci sono delle aree dove ce ne sono poche comunque, ci sono delle aree dove non ci sono molte cose segnalate, però ci sono anche delle altre zone invece dove queste realtà si stanno addensando tutte insieme e quindi insieme fanno un tessuto verde che è sul territorio. Tracanzan, dov'è che siete più radicati? Dov'è che sono più radicati un certo modo di pensare all'ambiente, alla vita anche? Ma direi che assolutamente le tre zone principali possono essere il nord-est, il nord-ovest e la Toscana. Queste sono le tre zone più densamente popolate su Zoes, ma è anche un po' sul web in generale. Direi che soprattutto anche in Italia, dove abbiamo dei grossi problemi di digital divide e di accesso alla banda larga, penso sia abbastanza normale che ci sia si sia più avvezzi all'uso del web in queste zone in generale. Quindi anche Zoes un po' paga questo. Dall'altro lato sicuramente ci sono molte iniziative che sono nate, pensiamo alla Banca Etica è nata a Padova, oppure i gruppi di acquisto solidale che hanno avuto un pronto e rapido sviluppo soprattutto nell'Interland milanese, quindi sicuramente lì sono anche le radici di questa comunità, che però di fatto è in tutta Italia. I gruppi di acquisto solidale si incontrano da 2 anni in Sicilia e questa la dice lunga sul fatto che anche il sud comunque si sta per attivare questo tipo di radicamento. E poi Prego. No, e poi tutte queste realtà, dicevo che sono su mappa, la cosa interessante è che non sono solo dei puntini georeferenziati, ma che sono diventate anche in qualche modo un tessuto vero, e l'evento che facciamo a Firenze questo fine settimana WWW è proprio il momento di incontro di alcune di queste realtà che però appunto sono già entrati in rete tra di loro concretamente e con l'idea di venire a Firenze per mettere a disposizione una cosa fondamentale che il web ci offre, cioè mettere a disposizione il proprio saper fare. Quindi avremo anche 5 Ignite sul riuso, che non sono incentrate sul presente. Gli Ignite sono attività, poi degli eventi, delle conferenze. Esatto. Delle conferenze di 5 minuti per relatore che dice: io non presento la mia attività, io ti dico come si fa a fare una certa cosa, perché l'idea del web è questa: noi non dobbiamo più spostare merci, spostare camion, spendere soldi in trasporti e petrolio e inquinare, ma possiamo spostare le idee, per cui la mia capacità che di costa, che diciamo che è anche meno rischioso spostare le idee. Luca Conti, direttore scientifico di questa iniziativa, una vecchia conoscenza, giornalista di Nova 24, difficilissimo da beccare, da trovare, da incontrare. Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti, serissimo stranamente. Allora, lui sarà viene da dire il grande vecchio di questo evento, perché insomma tramerà un po' dietro e cercherà anche di puntare il compasso su quelli che devono essere gli argomenti caldi e più forti. Quali saranno secondo te i temi più in agenda, viene da dire, insomma? Ma in particolare me ne vengono in mente due. Uno con cui si apre la nostra chiacchierata, la nostra conversazione venerdì a Firenze, e che è il tema del greenwashing, cioè delle aziende che si verniciano di verde. Un'azienda a caso, la BP, non so se ne avete sentito parlare. Ma un po', va, un pochino. Ci saranno anche dei blogger molto provocatori in questo senso, quindi avremo modo di discuterne ampiamente. E la domenica invece si analizzeranno un po' gli aspetti legati alla partecipazione in rete, che si trasforma poi in partecipazione in eventi della vita di tutti i giorni, e ci saranno anche esponenti del popolo viola che potranno anche raccontarci la loro esperienza data da Facebook. Ecco, sta funzionando la partecipazione in rete per quanto riguarda la sostenibilità? Questo incontro vuole un po' fare il punto e stimolare anche il mondo ambientalista, il mondo della sostenibilità, a rendersi un po' più consapevole di come... Allora Luca, ti fermo un secondo. Prego. Perché la domanda va un po', la risposta, anzi la domanda no, la risposta va un pochino argomentata. Nova Lab 24. 16:46, sono stato violento a togliere la parola a tutti, me ne scuso, do la parola a Luca Dello Jacopo che deve interloquire con Luca Conti, ci sono troppi Luca. L'idea appunto era questa, cioè capire se i social network e anche i social media poi riescono a coinvolgere le persone e quindi sono, diventano una platea per la discussione nel tema poi della sostenibilità. Cioè, insomma, abboccano ai social media coloro che, insomma, i verdi o quantomeno le persone sensibili ai temi ambientalisti. Guarda, io ne posso dire qualcosa, perché oltre a essere noto in rete, magari anche sul Sole 24 Ore per scrivere di argomenti legati a internet, sono laureato in scienze ambientali e per molti anni ho militato come attivista nel WWF Italia, quindi conosco il mondo dell'ambientalismo italiano dall'interno, e devo dire che stiamo un po' indietro nell'essere consapevoli di come questi strumenti possono aiutare a far conoscere le cause e a mobilitare anche le persone che le vogliono che però sostenere. È strano, Luca, perché poi cioè, dovrebbe essere invece un volano straordinario per chi vuole, cioè, o per chi si desidera cambiare il mondo, poi no? Assolutamente sì, il problema sta nell'adozione delle tecnologie, e spesso e volentieri gli italiani, anche gli italiani che amano stare all'aria aperta e stanno meno davanti al computer, non hanno ancora apprezzato fino in fondo i vantaggi della rete. Non voglio dire che chiaramente non ci siano ambientalisti in rete, anzi l'iniziativa del prossimo weekend è un po' un modo anche per incontrarsi, però a mio avviso si può fare molto di più, e un incontro come WWF vuole proprio dare un po' di stimolo ad attivarsi. Bene, passiamo a raccontare una storia, la storia di Palm, è un'azienda. Noi abbiamo in collegamento Primo Barzoni, amministratore delegato. Prima ascoltiamo la scheda di Luca Dello Jacopo, poi vediamo di capire che cosa succede. Eco Design a chilometro zero, con l'obiettivo di ridurre l'impatto sulla natura. La sfida di Palm, azienda mantovana, è stata di costruire una catena verde per il pallet e apre un ciclo di vita ecologico. La produzione richiede pioppi delle foreste non distanti più di 50 km, l'imballaggio è biodegradabile, i bancali sono riciclabili e le emissioni di anidride carbonica per il trasporto delle materie prime vengono ridotte. Diventa una filiera verde integrata con i processi produttivi di clienti e fornitori. L'impegno per l'ambiente si intreccia con la solidarietà. L'azienda ha fondato un'associazione non profit per il sostegno ai disabili. Allora, prima Luca Conti parlava di greenwashing, parlava di BP, insomma parlava di aziende che si danno proprio una mano di verde per cercare di essere un po' più alla moda, un po' più accettabili. Non mi sembra che sia proprio il caso di Palm. Buongiorno. Salve a tutti. Salve. Voi invece, insomma, geneticamente mi sembra che siete nati per guardare in un certo, da un punto di vista al mondo, o sbaglio? Con un certo sguardo. Beh, credo la fortuna soprattutto quella di essere, diciamo, figli di un artigiano del legno. Il nostro padre era un falegname. E noi siamo 9 fratelli e da 30 anni siamo insieme tutti 8, diciamo la più grande è una ragazza, quindi una femmina, quindi si è sposata giovane, e quindi noi, diciamo, l'esperienza imprenditoriale ha inciso anche con l'esperienza familiare e quindi anche umana, no, verso il lavoro. Una vera e propria azienda familiare? Beh, diciamo sì, L'azienda oggi conta 60 collaboratori, compreso la famiglia, e poi c'è, diciamo, oggi, vabbè, il percorso oggi lo porto a definire Palm Community, no? Community perché? Perché è indubbio che siamo usciti da tempo in una logica di prodotto, quindi non solo abbiamo promosso nell'economia il prodotto, quindi il bancale, il pallet, ma man mano poi che abbiamo imparato a utilizzare gli strumenti quali l'LCA, quindi ragionare in ottica di costo di ciclo di vita e l'approccio all'ecodesign, ci ha portato a ragionare, cioè a mettere a sistema, diciamo, quello che erano un po' i nostri saperi, sono incrociati con i saperi dei centri di ricerca, abbiamo fornito l'inserimento, l'integrazione dei giovani laureati, abbiamo il più alto numero di laureati in azienda. Quanti? E ne abbiamo 5, tutti sotto. Su quanti dipendenti? Su 60. Vabbè. Ecco, ma perché poi avete scelto la sostenibilità? Beh, in questo momento in particolare? Beh, un viaggio che viene da lontano. Il decreto Toffer in Germania era nel 92. Nel 92 in Germania il decreto Toffer aveva già fatto la prima legge per la corresponsabilità dell'approccio degli imballaggi. In Italia siamo nel 96-97 con il decreto Ronchi. Il ministro dell'ambiente allora è Edo Ronchi, che poi ha fondato il CONAI, le filiere del recupero degli imballaggi, ha indicato due strumenti fondamentali per la prevenzione e quindi per approcciare un approccio, diciamo, alla corresponsabilità condivisa, che era proprio l'ecodesign e l'LCA. Ecco, Barzoni, scusi, 5 su 60 laureati, mi ha detto? No, noi abbiamo, allora, l'azienda, cioè, abbiamo... Cioè, 5 laureati su 60 dipendenti? No, allora, 5 laureati che fanno parte dell'area... Allora, l'azienda investe il 2,5% ormai da 6 anni nell'area di ricerca e sviluppo. L'azienda ha creato un'area di ricerca e sviluppo formata da un gruppo di giovani laureati che collaborano direttamente con me. Ho capito, quindi, cioè, era un alto numero di laureati nell'area di ricerca e sviluppo. Ricerca e sviluppo, sì. Cioè, rispetto alle dimensioni, no, perché il numero non mi risulta, cioè, mi suonava strano. No, era proprio una, diciamo, è un equilibrio. Diciamo che per fare i bancali pallet è un fattore abbastanza tipico che si va ad attivare un'area di ricerca. Ecco, Barzoni, abbiamo pochissimi secondi, dirà qualcosa di forte a Firenze, insomma, proverà a togliersi qualche sassolino. Anche contro il greenwashing. Sì, nel senso. Beh, anche perché altrimenti posso darvi un consiglio, poi sembrate un po' troppo buoni che cavalcate certi temi, cioè, boh, non lo so. Forse ci vuole un po' di antagonismo, di marcare, se ci sono delle differenze che si marchi, no? Allora, parlando di cose concrete... No, abbiamo pochissimi secondi, una battuta, allora, una promessa che dirà qualcosa di forte. Fortissimo, diventare tutti parte di una filiera bosco-legno consumatore responsabile. Non può esistere un'impresa sostenibile se non c'è un consumatore sostenibile. Si può parlare di sostenibilità, di etica, se non prima si fa un esame di coscienza sulla catena di fornitura. Tutto il valore arriva non dipende da noi, arriva da dove compriamo, da come compriamo, da come viene fatto il prodotto che noi consumiamo. Quindi la catena di fornitura etica è indispensabile per essere... Va bene, dai, mi aspettavo qualcosa di più forte, ma mi sembra anche questo un concetto che va bene, sì. Anche perché tutti devono fare queste scelte, cioè non è una cosa che si può fare da soli, ma la devono fare tutti. Oggi giornata, tutti che chiosano la situazione. Ringrazio, l'appuntamento è domani alle 16:30. Ringrazio Luca Conti, tra Canzan e Barzoni, e in bocca al lupo per l'evento. Nova Lab 24. Nova Lab 24.